frase sul fondo di un'altra bottiglia. Matrice nera errante in un lager di stato. L'impiegato a tempo determinato, sottopagato. Sono la madre che piange, un figlio morto ammazzato. Il poliziotto non ha mai pagato il suo reato. Sono una giovane donna con incubi nella testa. Una violenza subita in una giornata come questa. Sono quel che resta di uomini e donne senza volto, inghiottiti da un regime, dispersi nel mondo. Sono la voce confusa di chi rigetta indietro le lacrime, di chi lotta a cani sulle mani, vuote le tasche. Sono chi rinasce da una vita amara ad una peggiore. Sono chi muore sul lavoro, numero in un calcolatore. Sono il letto vuoto di una vedova di guerra che attende, spende pensieri aggrappata a quella finestra. Sono sudore e sangue di un'altra vita, non questa di chi crede nella giustizia o ciò che ne resta. Sono nera e lucida come la canna del fucile. Sono la terra che è distrutta, non sa come rifiorire. Sono il volto della gente che muore per non soffrire. Il sapore della calce di chi vuol ricostruire. Sono un numero, una voce, un volto, una promessa. La tua coscienza sporca in un'area dismessa. Sono chi non ha denaro, voce, domande che